mamma. Mamma, quel vino è geloso. Certo, oggi troppi bicchieri ne ho tracannati. Vado fuori all'aperto, ma prima voglio che mi benedite come quel giorno che paradiso dato. E poi, mamma, sentite, se io non tornassi, se io non tornassi, Santa.